Stasera ho avuto un déjà vu a tu per tu con il mio io e mi sono chiesto, ma sono io o sono Blin? Ma io sono Leonard, nome incompleto dalla nascita. Quando mi chiamano, sbagliano. Quando compilano un foglio, sbagliano. Non mi ricordo perché mi chiamo così, ma qualunque sia il tuo nome, prendilo com'è. Perché?